stazione 10, c'è qualcuno? Chiesa. Chi dà il segnale adesso? Sul canale 10 c'è qualcuno? Johnny K, buonasera. Ui, allora ciao Gio, stiamo a provare questa radio K, guardati il video quando posso mettersi a far rientro che è un cold K, ciao, mandami il video, l'audio, se mi devi mandare sul cellulare. Chiudo Gio, dai, che sto facendo roba qua e niente, rimango comunque in ascolto, stavo provando appunto questa radio che mi hanno confermato il tutto. Ok, ciao. Ehi, ciao, ma non ho capito chi sei, perché sei tutto con l'eco, tutto sparato, boh, non si capisce chi sei. Luca, ciao Gianni, buonasera. Ehi, ciao Luca. Non ho capito, cosa vuoi il video? Sta caricando il mio telefono, Luca, non ce la faccio a fartela adesso. Ah, non hai capito, te l'ho mandato io, ciao. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Bisogno. Vabbè già, lo sai, noi siamo d'estate, non entra nessuno, l'inverno poi c'è freddo, non entra nessuno, lo stesso. Che microfono stai usando con quell'apparecchio, Luca? Questo è un microfono di quelli che è della CDM, mi pare, che c'è la rotellina sopra. Adesso gli è tolto, l'eco, così è. Il comando dell'eco ce l'ha dove ce l'ha normalmente. Calibrato, lì ce l'ho. Guarda, vedere. Gli accessi. E io c'ho un microfono lì che ci va veramente bene. Quello modificato dalla CTE che usavo, e quando ho venduto la LAN 48 non gliel'ho dato, capito? Gli ho dato un microfono normale come l'avevano dato a me. C'ho quello della CTE che è modificato e va benissimo. Sì, questo no, c'è tipo solo Dynamic Mix, credo sia della CTE. Vabbè, a due, guarda, adesso te lo sto aumentando. Te ne accorgi tu stesso, va bene dai, già tanto finisco di mettere a posto qua, vedi un po' se ti piace questa K di modulazione, K K Rogero, Mikey Gain è a 5, a metà in pratica, ok. È un po' nasina, però magari è perché lo stai tenendo troppo vicino. Quant'è che lo stai dando quello lì? Già, ti ho mandato i messaggi, non ne dico in radio, capito? Ti ho mandato il messaggio, ciao, che sto facendo roba. Guarda, adesso me l'ha allontanato, ma chi è a 7? Ce l'ho a più di un metro il microfono. Ciao Lucia. Ma non entra nessuno stasera, boh. Avanti. Ehi, no, ogni tanto mi fermo e poi riprendo, che sto facendo robe già, così che se mi assento non farci caso, dai. Hai visto i quesiti che ti ho messo sul messaggio? Adesso tu guarda quando io sto parlando lo smitter, come va? Sono 9.30. E quindi sta andando. Se sta 9.30 sta andando. Ok. Vabbè, fammi sapere, Luda. Se poi lo dai a quello lì non fa nulla, dai. Ti faccio passare, però già, solo per telefono mandami la roba, dai. Ciao. Eia, andava bene. Chiara. E infatti il mio non riusciamo a venderlo, non Luis. No, te l'ho detto, due persone mi avevano contattato, perché volevano sapere quanti canali aveva. 40 per banda. Io ho detto. Uno mi aveva scritto, adesso mi signor Radio che vai. Buonasera. Ciao capo, buonasera. Bella, bella veramente. Bella, bella, bella, bella. E quella è una Echo Colt, c'ho anche Gianni. Quella è Echo Colt, forse tu non te ne sei accorta, ma è una Echo Colt. C'è la scheda Echo Colt, quella, perché il bip è dell'Echo Colt. Ehi, sì, c'è il bip, secco. Ed è sì, ma chi è, c'è sì. E così sta andando al massimo a più di un metro e mezzo di distanza. Ehi, un metro e mezzo almeno il volume del microfono. Campo... Sì, ma non puoi essere coccolti, sei tutto coccolti, il microfono va tenuto attaccato alla bocca, è favolosa quella radio, veramente favolosa. Quindi quella è un Saturnico da 300 euro, quello sì, perché un Saturnico già 200 euro normale, in più c'hai l'impianto Echo Colt e quindi le 100 euro ci sono dentro, se no anche di più, capite? Ma no, in aggiunta a 350 euro normali di Saturnico, quelli sono pazzi, o non sei d'accordo Gianni? Ehi, vabbè. Vediamo là. Però a mio parere, io a me non mi interessa perché io da radio modificata ce l'ho, il Coccolte, non è un Saturnico, non me ne fotti lunga, non mi dà. Le mie esigenze che tutti conoscete, noi posso andare a fare casino nel 45, sono radioamatore e non mi va bene. Ok, però lì, come te, come tanti altri, lì io gli avrei buttate 300 euro. Perché? Perché c'è una radio eccezionale. Ok, perché la numero uno, il Saturn, è il numero uno dei baracchini, non c'è niente da fare. In più c'è l'impianto e Coccolte e mi posso divertire. Punto e basta. Ecco, così si può comprare una radio, ma non vi ho di 300 euro, ma lo Saturnico normale. Ma non ci penso neanche minimamente. Poi vabbè, tanto io delle Coccolte là non li uso, no. A me mi piace normale col microfono che dico io, come sono sempre uscito. La tua ci va benissimo, io te l'ho sempre vantata e continuo a ribadirlo che Saturnico forse il mio quello che ho dato usciva come il tuo con l'MBP5 molto molto molto bene, però era normalissima, abbinato il microfono giusto e andava bene, però tu con l'MBP5 non ce n'era per nessuno, poi ci hai messo il DM1000 e andavi bene lo stesso, però con l'MBP5 la tua era come quella che stavo usando io. L'ho usata per problemi di spazio perché c'ho altre radio HF, purtroppo mi sono dovuto restringere perché questa non è più una sala radio, è un posto dove si tengo le radio, ma è anche una cameretta dove a volte mi arriva gente e quindi c'è bisogno della stanza, perciò ho dovuto restringere e ho fatto spazio. Ho tutte le HF che mi servono, le VLU, però baracchini non ne posso mettere perché altrimenti devo fare altri lavori e non ha nessuna intenzione. Sono veramente delle radio eccezionali da tenere. Sì Luca, complimenti veramente, te li ho fatti anche poco fa. È veramente una bellissima radio. Nuova, funzionante, ma soprattutto molto molto forte, bellissima. Adesso l'ho attaccata alla bocca, ho passato un po' dal microfono. Ok, adesso metto un attimino il microfono dell'altro Colt, ok, del 48. Vediamo un po' che sarebbe il CRT520. Sempre normale, però normale, che si mette di solito quando si modificano queste radio. Cappa, dai. Un secondo che cambio microfono perché vediamo un po' come esce l'altro, dai. Questa è bellissima, con il microfono attaccato alla bocca è bellissima. Fortissima, bella, c'è un effetto di cottura da favola, veramente, mi piace tantissimo. Prova a mettere l'altro microfono. Ok, questo è il microfono che si mette solitamente appunto in quelli modificati. È attaccata alla bocca, Mike Yen sempre a 6, K, vedi un po' com'è? Non so se Gianni è d'accordo, questa c'ha più acuti, mi sembra un po' più metallica, l'altra mi piaceva di più, Gianni? Ehi, ma fammela sentire con l'eco. Allora, l'eco è al massimo, ok? Guarda un po', adesso sto aumentando il mic gain per vedere cosa cambia nella radio, ok? Mic gain a 9 adesso, vedi un po' com'è, 1, 2, 3, prova. questa per me è più chiara, con l'eco si rendi conto che è molto più chiara, nel senso che l'altra rimane più nasina, invece questa qua rimane proprio limpida come radio. Bella Lu, bella, bella, bella, bella, puoi mettere anche a 10 perché cazzo, veramente molto bella. Allora, così a 10, l'eco c'è sempre, perché l'eco non lo sto toccando, lo so, ho cambiato microfono, quello là è amplificato e questo no. Bella è, bella, non toccare l'eco, lascialo stare così che c'è la ripetizione giusta, effetto elicottero come deve andare e c'è una amplificazione allucinante. Sto ascoltando col 430, ma è veramente molto bella, bella, veramente. Allora ci posso attaccare il 60 anche? Ci può attaccare anche l'80. E a chi? Se lo sai che io, se mi pongo a attaccarlo. Assolutamente, bella, bella, bella, bella. Gianni, faccio un pensiero. Io ti ripeto, non sono interessato perché ce l'avevo, me la sono venduto rispetto al servizio di spazio. O il tonnello 5005 Eco Colt che mi affavola, ma 50 watt. Perciò mi basta quello lì, basta, baracchini, niente più. Sennò qua torniamo come ai tempi di prima. Mi devo mettere in gioco un HF, adesso ho tutti gli HF che mi servono, le V e le U, sto rimontando qualche antenna nuova, va bene così, però ripeto, per chi è interessato veramente questa radio è bella, molto bella. Il microfono originale ce l'ha Luca? No, questo preamplificato, posso dare anche quest'altro che sto usando adesso, non ne ho problemi, solo che là poi ne mettere un altro nel caso, capito? Però come ha detto Claudio, il prezzo lievita il prezzo, cappa. E allora a me non mi va più bene. Va bene, ok, già, perfetto. Ok, allora cappa, metto un annuncio. Ok, adesso vedo, aspetto la risposta di quell'altro, intanto che era super interessato anche lui. Va bene, ciao, dai che metto, finisco che metto a posto qua. Non per sapere, infatti tu Luca, quanto la stai dando? 300? No, molto meno la stavo dando, però se tu mi stai dicendo così, perché la devo regalare? Cioè io parlo non da interessato, insomma, per quello che vedo e leggo, se un Saturn Echo lo danno a 250 euro, normale, come quello che c'avevo io, come quello che c'aveva Gianni, come quello che c'è Massimiliano, che Massimiliano ha pagato 250 euro, compresa la spedizione, e tu c'hai un Echo Colto sotto il culo, è chiaro che il prezzo di vita, forse tu non te ne sei accorto, ma gli discorsi sono quelli, lui non lo so. Veramente, ripeto, io non sono interessato, se fossi interessato ti avrei detto domani mattina vengo a prendermi quella radio, come ho fatto con le altre cose, sia a te anche ad altre persone che mi hanno contattato, mi hanno proposto, sì mi interessa, sto venendo a prenderla, sono andato e me la sono presa, non sto lì a cincischiare, però su questa non sono interessato perché non me ne faccio niente, capito? Non posso comprarmi una radio che uso così ogni tanto per fare due chiacchiere a quel prezzo, capito? Però ripeto, se li vale tutti, se li vale tutti, perché così non c'è niente da fare. Se consideri, Gianni lo sa, come me, come tanti altri, che abbiamo comprato baracchini a 400 euro, tu vai a un gara di Saturn Echo e Colt, certo, non gli ho preso 300 euro, per me se li vale tutti, poi ognuno, ripeto, può pensarla come vuole, io esprimo il mio parere, punto. Va bene, devo lasciare che è arrivata mia figlia, ci sentiamo dopo. Gianni, faccio un pensiero, non stare lì a cincischiare perché se li vale quei soldi. Ciao ragazzi, vi saluto. Ciao, ho rimesso l'altro microfono che è a 3 e MacKG di nuovo a 5. Sì, ok, va bene, dai. Ma poi ho mandato anche il video a Gianni delle sue funzioni, che è tutto a posto, così che va bene, dai, ok, dai che sto rispondendo a dei messaggi anche su WhatsApp, avanti già. Aspetta che sto scrivendo un messaggio. Va bene, dai, vedete lui, ripeto, io mio parere l'ho espresso, la radio è bella, nuova, funzionante, perché ho visto anche il video, ma abbiamo fatto anche una prova poco fa sul canale 20. Va bene, ok, dai, vi saluto, ciao ciao. Attenzione, Alghero, ascolti Sassari, K. Chi sei? Non ho capito. Mirko. Ah, ciao Mirko, ciao, ben sentito. Doppio rum da questa parte, compagnia di Sparviero e di Luca Flipper. K, in campagna c'è sempre da fare, dai Mirko. Mi ascolti meglio adesso? K, già va bene, allora. Vabbè, ma mi ascoltavi anche prima, non c'è problema. Ciao Mirko, ciao, mi devo allontanare dalla radio, ci sentiamo dopo Mirko. In campagna bisogna stare sempre allerta. Io non ho questi problemi di preparare niente, già sono in città, diciamo. Va bene, ti saluto Mirko, 5-8 arrivi qua, quasi 9, non c'è un problema, dai. Gianni, a te, riprendi e ci sentiamo più tardi, ragazzi, ciao ciao. Ciao ciao Cla. Mirko, in quanti siete rimasti Alghero adesso? Quello non è male, che la luce costa tanto. Dai, ho capito. Va bene, dai. Allora, guarda tu la convenienza e anche, diciamo, la funzionalità delle batterie, la durata. Devi guardare un po' tutto, perché poi se devi rifare la spesa, dopo poco tempo non ti conviene. Oh, Gianni. Aspetta tu. Va bene, ma vogliono alimentarti anche quelli. Bisogna vedere quanti ce ne vogliono pannelli. Aspetta un attimino che è entrato un amico. Avanti, Tony. Ciao, Gianni. Ciao, non vi stai parlando perché non lo sento. Ciao, Tony, ciao, ben sentito, dai. C'è l'amico d'Alghero, non so se lo ascolti. Alghero, Allora via, avanti. Avanti, Alghero. In effetti la radio è bassa, Tony, cosa stai usando? Mike normale, sullo sito c'è avevo il Mike Ghi abbassato, Santiago 7 e Radio 3, li posso ascoltare. KK. Sì, adesso vai bene, Tony, prima eri troppo basso. Infatti è strano che stai scendendo con la voce così bassa. Il segnale è buono, ma la voce è troppo bassa. Andave, riprendi l'amico d'Alghero. Purtroppo sì, purtroppo è così. Quasi al 60% mi pare, molto di più del doppio. Almeno non devi sprecare energia elettrica. Avanti Tony. Capo, mi sto guardando questa antenna che è bellissima, adesso me la ordino. La Grazioli, non so se la conosci, la G-Max 269 euro costa. La Grazioli è una delle migliori antenne che c'è, se non la migliore. Capo, è superiore anche alla 91 che facciamo, cioè, è la stessa più o meno alluminio, anche superiore, perché ho visto anche filmato, ma non ha detto anche cosa Stefano, poi automaticamente ho cercato con quello che io ho dato il lineare di Torino alla Grazioli anche lui, per lui c'è quella inferiore di questa, capito? Faccio volevo fare questa 269, la G-Max. Avanti, capo, Santiago 8, Radio 5, dai. A me arriva più forte, ciao Claudio, 9:10 a questa parte, Radio 5. Capo, qua è amplificata la radio tua, è ottima, ma io sono usando un mic normale, dai, non posso pretendere. Sono sempre, devo attaccare se cavo tre fili al tardi, però non ne ho mai voglia, la verità. Ho avuto un problema, un incidente, quindi sono già da luglio che sono fermo così, capito? Adesso mi sto riprendendo piano piano e chissà se me l'attacco questo benedetto microfono. Ok, comunque radio Super 5, amplificata da parte mia. Avanti Gianni. Sì, anche da parte mia è presente la radio, probabilmente questo apparecchio dà dei segnali un po', forse come ti sta arrivando io di segnali lì? Prima sui messi, comunque. Teniamo un giro meglio io che Gianni, va, forse sono più favorevole, la parte tua Gianni è più negativo, perché Gianni ha molto molto più in alto di me, lui vede tutto, io vedo Bifalo, dove sono, avanti. Ma tu ce l'hai di fronte, tutti i paesi ce l'hai di fronte, capito? E forse è più libero, no, io ho qualche ostacolo, non lo so, Non lo so già, perché ripeto, io sono fuori Sassari, sono anche un po' in collina quasi, vedo un po' Sassari, però molti palazzi vedo, capito? Non lo so, in base dove lui, forse giustamente sono più favorevole, se non sarei arrivato ottimale così. Aspetta Claudio che c'è anche uno di Alghero. Avanti Alghero. Lo so, sto usando anche normale, purtroppo ho avuto dei problemi, diciamo, fisici. un problema che ho avuto non per colpa mia, giustamente, e per quello sono rimasto un po' handicappato, diciamo, nel senso che non potevo muovermi, tutto qua. Gianni già lo sa. Ok, Claudio, per me, che decide quello di Alighiero. Gianni si sarà spostato senz'altro. K, e io ho anche un espander 500. Niente, devo fare, mi sa che mi sta dando la pulce, ma entro anche poco qua, il fattore questo. Perché l'altra volta sono entrato con Gianni, c'era anche Claudio Spalviero, ma è molto importante. Allora, infine, faccio prima a telefonarli. Non mi sono neanche cavolato, adesso la piglia Lucchi Maracchino, quanto ce n'è. Aspetto tutto, non mi frega niente. Sapendo anche chi è, comunque, non mi frega niente. Quando lo troverò a verificare, un paio di calcicule, buonanotte. Tutto qua, non mi dirò neanche più a Maracchino, perché no, non c'è il tanto, non vado, fammi conoscere quello che non sono, Claudio, capito? Mi piace dentro, Gianni è entrato. Ehi, dai, era al telefono, dai. L'avevo capito. Sì, ma a me il fattore è questo, che a me mi hanno chiamato al telefono e mi hanno detto, ero in tal posto, alla portante del tizio, tutto qua. Era quasi sopra casa sua, quindi per quello che so chi è. Ma ti ho detto non interessa niente, capito? Guardate, mi sono messo poi in vendita un po' di apparati che erano stati neotrofi e non me ne frega niente, anche di quelli vintage stesso, ne ho vecchiotti e funzionano tutti, belli, veramente belli, ogni tanto cambio baracchino. Niente, abbiamo deciso di mettere questo cavolo di microfono, non lo so, quando ne avrò voglia, perché poi dico, ma non ne vale la pena, capito? A stare lì, a saldare i fili, vedere il saldatore, aspettare che scalda. Tutto qua Claudio, a proposito, voi in casa tutto bene, tua madre, tuo padre? Cappa, ero partito anche a operarmi, fuori, contento, e poi invece quest'anno l'antenna era quella che era, poi quando mi sono deciso di prendere un'antenna l'ho piazzata. Poi ho avuto un altro problema e insomma, non colpa mia, ripeto. E questo mi è venuto addosso. Io avevo il semaforo verde, ero con scooterone, e questo col rosso è passato. E vabbè, dal 16 luglio tu pensi che sono messo male. Adesso sto migliorando, diciamo, riesco a camminare, guidare la macchina, tutto qua. E subito ti faccio entrare Gianni. Oh, Claudio, è proprio, è quello famoso, ex mio collega, Giovanni. Giusto, lui sempre sull'attenti. Comunque, lo c'è qualcuno che lo conosce, perché come lo vedo, te lo trattano. Ma che domani che si macco, raga? Vabbè, che ci vuoi fare? Ma che lui si è fatto bonifico, c'ha gli estremi, va a denunciare e poi... Comunque, l'ultimo passaggio che ti faccio, poi ti faccio rilascio subito a Gianni, scusa già. Allora, per il mio numero, non te lo do con il telefono, ma a Maracchino, però poi visto se c'è quello di Gianni, o te lo fa dare da Carlo Sfaviero, o te lo fa dare da Roberto Quadrato, o da Alice Pomponio. Se tu c'hai uno di questi numeri, mi dici datti il mio numero e te lo danno. Ok, avanti Gianni, dipende. Io ho un QTC per chiodare Ruginito. Allora, l'altro giorno ti stava telefonando Marino e ha detto che non riusciva a prendere la linea. E io gli ho detto che lì ci avevate problemi di linea, che ogni tanto diceva magari ha cambiato numero, no, ma io so che hanno problemi di linea al telefono. Comunque se tu c'hai il numero di Marino chiamalo perché ti voleva parlare. Sì, perfetto, ce l'ha anche Marino il mio numero, capito? Ce l'ho poche persone, ma buone, tutto qua, non basta. Va bene, non c'è problema, diglielo pure a Roberto Quadrato, che te lo ho autorizzato io, non è il mio numero. Così poi glielo dice anche a tuo padre, Benemeta, che non voglio sentirlo, raga. Avanti Gianni. Ehi, c'è anche Alghero, facciamo venire avanti Alghero. Avanti Alghero. Deve aver chiuso, dai, forse si è annoiato perché noi abbiamo rilanciato il mic. Vabbè, Tony, ma non ti va bene quell'antenna che c'hai? Va bene, perché la vuoi cambiare? Beh, la Graziuli è una signora antenna, già è molto superiore come trasmissione e ricezione, in cui diciamo dove ho spostato l'antenna io. Se io questa qua l'avrei messa dove era prima, io arrivo molto meglio tutte le parti. Però purtroppo l'ho dovuto spostare, l'ho messa all'esterno, fuori, dietro, perché quello che viene a mettere qua mi ha detto che le onde radio disturbavano la figlia di poteva venire la sua carrozza, quella che non so, vede Maria, la sua produzione, 10 milioni di watt, ma stiamo scherzando. Beh, alla fin fine, insomma, ha detto, non voglio pensare con nessuno, insomma, mando a quel paese, ma finì pure mettermi addosso, e me lo pacchetto. Allora ha detto, per evitare, io abito qua, non voglio pensare con nessuno, capito? Se è un'altra zona l'avrei fatto, ma qua ci vivo, e quindi, niente, infatti ho visto, da quando ho cambiato la posizione, ho cambiato anche il segnale. Ma se metti un'antenna lunga così, ti dice ancora più cose, peggiori la situazione? No, perché è distante da come dice, qua in linea d'aria, ti pure forzata a 3 metri, non è così, molto forzata, purtroppo, però dice linea d'aria, c'è troppo vicino alla piazza dove dorme mia figlia, quella fredata, vabbè, ho detto, qua informati bene, poi si è informato, e dopo 3 giorni mi ha detto, ah, mi scusi, tanto, e mi sono informato abbastanza bene, un altro mi ha detto, radioamatore, che certo se lo stai modulando 24 su 24 non lo fai, altro scusi, ma gira gira non vado neanche a mangiare, non vado neanche a dormire, non esco con qualche amico, rimango in casa secche pentole, io non so, con mutilato 24 su 24 baracchino, ma chi non lo fa nessuno, ma stiamo scherzando, se ci sto mezz'ora che troppo, dai. E infatti a futtidini, cioè la Grazioli è un'antenna molto bella, ma è molto diciamo difficile da piazzare, c'è un bel di bullonature, di viti, di cose, l'ho vista spiazzata e ripiazzandola, non è facile da piazzare. Lo so, ho visto il video, per carità, bella comunque come antenna, come accessorio, come tutto, avanti Claudio. Sì, la Grazioli è una bella antenna, la stavo guardando anche io prima di prendermi la Lema, ma la Lema va molto bene lo stesso. La Grazioli c'ha i tubi che sono grossi, è ben fatta, è tutto in acciaio, eccetera, è fatta molto bene. Allora, questo della cracchia fare antenne è un carissimo amico anche di Stefano, perché lui l'ha conosciuto in persona, e le costruisce lui, questo ragazzo l'ha praticamente lavorato anche con la LEM, la Matova 1, sono materrato. E quindi ha cercato di perfezionarla ancora di più ed è superiore, così vede anche del filmato, eccetera, eccetera. Comunque, io visto che è una bella antenna, però è tutto da, diciamo, da vedere sul fatto mio, Gian, non lo so, ho detto sì, mi piace, quasi quasi me la compro, sono indeciso, perché ripeto, la frequenza è quella che è, capito? Non penso che ne valga la pena stare lì a perfezionarti con pochi cimi che ci sono, e quei pochi che ci sono c'è qualche duo scalmanato che devono abbozzare. Avanti qua. È la gnagna. Ehi, qualcuno stava entrando, chi è? Avanti. Vabbè, ha fatto la battuta e non ho capito cosa ha detto. Andava. Ma sono entrambi buone come antenne. Dai, la Grazioli come statistica l'hanno messa prima e la seconda la Jim Paul, però poi dipende sempre dalle opinioni delle persone, eccetera eccetera. Io niente, questo manco riesco a ritracciarla questa Jim Paul 70. Io mi sono questa Grazioli che mi hanno parlato molto bene, che poi neanche tra l'altro non mi ha detto Stefano, ma neanche fa la posta quello di Torino che ho parlato con Enzo, ma io ho la Grazioli sotto, la Grazioli, e poi ti consiglio un capo, me lo mandare il messaggio che capo è, dice è come l'RG8, ha una sigla che è superiore all'RG213, pensa un po', è uscito da poco questo cavo qua, lui sta usando quello, e puoi mettere anche 3 kW sotto, non c'è problema. Era l'H1000. È fino già, è piccolo, non è grosso come l'RG213 o l'RG8. Sì, è più fino, può essere anche l'H1000, oppure quello che c'è a Natalino, che non mi ricordo come si chiama. Non so neanche quanto costa, perché se cambia l'antenna appunto relativo, automaticamente rimetto quel cavo lì, capito? Però metto il palo più alto, più grosso, questa antenna la lascio, ne avrò due dopo antenne, così al manco sto due gore da gli specchi a me. 5 euro al metro lineare. Ciao. No, linea l'ho fatto fuori, purtroppo. Era troppo in vasto, non volevo entrare a mettere la portante di qualcuno a sciogliere il baracchino. 5 euro a metro lineare da giudizio, non lineare, lineare ma giù 4. Costa 5 euro a metro, al metro. Capito quello che c'ho io? L'H1000 costava 4 l'hanno aumentato a 5, Fusaro ne vuole 6, 6 euro al metro. In che è Pietrano? Vabbè, 30 metri sono esattamente 150 euro. Oh, vabbè, aspetta quanto mi ha sparato Fusaro per l'RG 8, se non vado errato. Ma ne aveva solo 20 metri adesso però, allora non li ha preso, comunque ciao, grazie, ben entrato, e avevo capito lineare comunque. Ok compagni, il cambio, chiudo il cilindro e Gianni Spalviero, vai per chi vuoi. No, no, io sono di passaggio ragazzi, sono qua che sono a salutare. Giusto per dirti quanto puoi pagare qua un capo buono, un H1000 da Fusaro te lo fa pagare 6 euro al metro, ok, il 213 devo fare in bagaglio 3,50 euro al metro, anzi forse anche 4, e le leggi 58 devo fare in bagaglio 1,50 euro al metro, io lo uso per tendere i panni di Filippo, capito? Quindi lasciamo perdere, io ne ho preso una matassa da 50 metri in continente 100 euro. H1000 number one, bravo. Beh, vi saluto, avanti a chi tocca, buonasera, ciao a tutti. Chiudo il gito. Ecco, è un'ottima antenna. Sì, costa, ma è un'ottima antenna. Qualità prezzo è un'ottima antenna. No, io la sto usando solo in 10 metri quella. Non la sto usando più in 27 perché è sprecata. Sto usando in 10 metri, manda amatoriale, ho dei risultati a livello di una verticale 5 bande. Dai, mi devo allontanare che devo fare cosa. Ciao Claudio, Gianni e Tonino, chiunque sia su 10. Avanti Gianni. Comprate il cavo buono, che il cavo comanda tutto, tutto. Se c'è un cavo buono, poca perdita, molto guadagno, funziona bene la radio, funziona bene l'antenna. Soprattutto per il rientro di RF. Avanti Gianni, passo e chiudo. Ehi, allora, ciao Claudio, ciao. Ci sentiamo dopo se vuoi entrare. Dai, avanti tutti. Capa, ciao Claudio, buon corrixi, avanti il lato Claudio. Chiodo, ti sei spostato. Gianni non riprende. Ma io ho trovato questo Merlin H1000, cavo con le 650 ohm. Prezzo 3,60 euro al metro. Ma ho capito bene che Claudio Spavira ha detto una matassa a 100 metri, non sono troppo pagata, ma io forse faccio il conto, sono un bel dinero. Comprando diciamo una matassa a 100 metri, perché se va a 3,60 euro al metro, 10 metri sono già 36.000 lire. 360.000 lire viene 100 metri qua, nulla, Gianni sarà spostato. Sì, ho visto che la camicia come è composta è abbastanza alto perché me l'hai parlato parecchie persone, quindi sì. Ma io guardi con questo Claudio, io lo prenderò se un domani mi decido che la frequenza cambia e metterò sia la Grazioli che questo cavo. Giustamente, perché se continua così, per carità, non ne vale anche la candela. La mia intenzione era vendermi un po' di roba che ce l'ha troppa, ce ne ho, e comprarmi un apparato Sirio, tipo un Kenwood, capito? Il DS-140 pure o 440. Però, ripeto, poi quello che vale la frequenza, ma che... Io ti ripeto, cosa facevo? Spegnevo il baracchino, accendevo la televisione, guardavo qualche canale che mi interessava, è la verità, e ero più felice e contento. Devo parlare con Tizio, chiedevo il baracchino, c'è un problema importante, lo telefonavo, accettavo quanto voleva al telefono, con Gianni ho fatto così anche con Claudio, una volta diceva portante, e beh, quello devo dire l'ho detto lo stesso, e nessuno ci ha rotto le scatole. Chi vuole entrare? Avanti. Mi è sembrato che uno mi sono portato poco fa. E beh. Salutoni. sì, tu. Antonio sono. Da dove? Seconda frazione via Milano. Ok, Antonio. Seconda frazione via Milano. Va bene. Vabbè, e tu Carlo copi? Carlo, salutoni che ho arrugginito da Muros. Come arrivo lì a Muros? Bene. Capa. A me arriva 7,7, meglio 2-3, non di più. Ma non so se stavo usando un attenino o che cosa. Boh, Gianni? Ma portati me l'ho messo. Ero distratto, Tonino, non mi sono accorto perché stavo avendo il telefono, dai. No, non me ne sono accorto, sinceramente. Claudio, portate me l'ho messo. Claudio, se mi stanno mettendo la portata. Poco fa era bella forte, sentiva anche un lineare che ha le valvole e la vente del raffreddamento, si sentiva, vabbè, cosa ha fatto, non lo so portare. Basta. Io avevo, ripeto, il 600 watt e non mi interessava, se volevo andare al 1200 in SSB potevo portare, ma non me l'ha fottinuta, cosa ha fatto, non ha concluso niente. Io quando so che una persona continua a mettere la portante, mi metto basta 5 watt, sopra dalla sua e metto la portante. Poi se lui c'è, è uomo con le sfere sotto, scende giù che poi il resto. Torino. Ehi, che? Ti ho dato G! Adesso con questo apparecchio come sto arrivando? L'altro da quello che c'ha 3 watt e mezzo, va, è per quello che ci muovo più basso. Se no vai 40 qua. Questo qua va bene, questo apparecchio va bene, questo è il cover. Ma ci hai attaccato anche qualcosa di più? No, non ci ho attaccato niente. Ah, io non è dire che a me che è chiuso, è chiuso, le fighe mi arrivi normale, Santiago quasi 9, qua sei addirittura 9-10. Tony, se non ci puoi credere, non ci credere. Non ho attaccato nulla, solo che è un apparecchio che esce con 20 watt. C'è un bel forte comunque. Abbassalo più, ora abbiamo quel soffa. Torino. Eia. Ciao Tony Luca, ma dove sei Tony? A casa, come al solito posto. Beh, a Gemma sei più facile di Gianni, burro. Addirittura. Ti giuro. Ma c'è un'antenna più disgraziata che viene con me, c'è costa 46 euro. Non mi fare di... Ti giuro, ti mando il video, sì, più forte di Gianni. Gianni quando era con l'altro baracchino. Scusate l'interruzione. Non ho capito che sì. Luca, Tony, ma non mi senti? C'è un po' qua che non ti sento. Forse perché non ci sentiamo spesso, ho perso già le cose denominative. Ok Luca. Che zona sei tu, hai detto? Lima Delta. Se no si può aumentarmi, vabbè. Dai, sto facendo cosa? No, è che stavo guardando i segnali appunto a Giudizio. Ma ti va a arrivare più facile di Gianni, io non lo so. Gianni è libero per te, tutto libero Lima Delta, cavolo. Io so che casino. Gianni attacca da me, infatti è quello che mi meraviglia. No, non so cosa dirti. Guarda così a vedere. Luca, guarda un po' a Gianni. Guarda cosa ti arrivo così, Luca. Che era al minimo della potenza la palina. 9,50, sì. Adesso è al massimo della potenza. Prima era al minimo. Sì, ma guarda anche la distanza già. Ti mando il video, così ti rendi conto di cosa parliamo. Sì, non mi interessa, ma è interessante che mi interessa. No, ho detto, mi sembra molto strana come cosa comunque. Io sto usando il water baracchino, quello che c'ha le galaxie. Vabbè, un attimino attacco l'altro, dai. Riprendi che da Ruginito, scusate l'interruzione di nuovo. Cappa, d'accordo Claudio. Un caro saluto alla tua Grichellone e al tuo Grichellone da parte mia. Sì, se ci sentiamo poi sentirò anche la tua parte, non c'è problema, sarai più felice del mondo, che sono un bel po' di tempo che non li sento. Va bene, buon corretti, salutoni, ci sentiamo. Avanti Luca per i saluti. Luca non li prende, Gianni. Ehi, ciao, ci sentiamo, dai, buona serata. Cappa. Ok già. Vabbè, poi. Non ho capito, poi chiudo il gita quanto arrivava col segnale, lo traetto. C'è portato. Ma lo parlo io. E io spengo il baracchino, me la faccio a me, non hai capito? E se devo parlare ti telefono faccio prima. È strana, fa tribuleggia. Aspetta, sto mandando il video. Cioè. Ehi, vabbè, non fa niente, lui non c'è problema. E io quando arrivo invece, Luca? Sì, avete lo stesso segnale, ti sto dicendo. Come l'hai attaccato giustamente così? Buono Prodore, migliorato il segnale. Sei superiore, sei 9-5. Cappa, come arrivo al muro adesso? Chiudo il ruginito, ha chiuso. Chiudo il ruginito, c'è? Ha chiuso Muros. Ah, va bene, dai. Dai che torno normale, di 9 non più. Ma c'è un'antenna? sei in macchina? No, fa molto più forte arrivo. Lui ha attaccato qualche cosa sotto, la tiene quasi 9.10. Da Santiago 7. Lui 9.40, io 9.50. Dai, torniamo a fare i bravi qua, dai. Vabbè, altra. Ciao, ciao. Ho fatto una prova che ho tarato l'antenna. E ho ricevuto il video anch'io, la Luca. Tu sei 9.40 e 9.50. L'ho guardato bene il video. Aspetta, ma tu sei cosa sotto, io non faccio nulla a me, già. Io non c'ho nulla sotto. Cazzo, hai capito, Tony? Non c'ho nulla, sto usando il Cobra. Boh, basta. Se vedo roba sotto, guarda. Vabbè, tu stai usando il Cobra con 20 watt. Io non c'ho un po' di manco. Sì, quello sì. Ne è 15. No, non ci sono neanche. A me con il mio mi dare sui 10 watt, non di più. E vabbè, ma non si può vendere gari, a me non me ne affitto, deve essere esattamente te. Sì, ma neanche a me, io ho quell'antenna che ho. La tua c'è, mi sembra troppo, perché tu sei molto più noto di me, capito? Vedi tutto Sassari. Rimanendo c'è di fronte proprio. Quell'antenna funge bene, per il prezzo che c'ha va benissimo. Vabbè, ho cambiato posizione, ma l'ho confermato quando c'era l'altra che aveva fatto a te, quella è posizionata qua dentro, messa qua dentro, arrivavo leggermente più forte. E vabbè, cambiato posizione o forse ho calato qualcosa. A me l'avete visto? Sì, sì. Ma dipende sempre dalle persone che ti ascoltano, dove stai arrivando. Magari uno ne arrivi più basso e l'altro più forte. Sì, ho visto il segnale comunque dell'apparato tuo, Luca. Bello apparato. Sì, però non lo vuole nessuno. 60 euro e non può venire a pigliarsi su nessuno. Bu-bu. Andiamo bene, andiamo. 60 euro. Non lo vuole nessuno, Tony. Allora, Gitto, beh, lavamelo dentro, così pareti. Sono tutti senza di là, e qui non c'è nessuno più, e allora, agito, allora me lo tengo, ecco. Visto che non funziona come vi piace. Hai detto, lui, 60 euro. Adesso alternanza. Ma cazzo mai vuoi mettere a Edu? No, anche il microfono, questo qua, Questo è l'MC50, attenzione, da non confondere, con la base del 60 e col mixer collegato. Avete capito, belli bene? Sento io lo sta. Cos'è già? Per amore, che cifra? Tony, aspetta. Stavo dando tutto... 60 euro tutto per togliere la mezzo e non lo voleva nessuno. Cazzo, 60 euro. Mio, ascolmino, se mi accarescerevi. La sera mi ha detto Gianni, sono arrivato i 40 anni. Vabbè, allora già rimane no. Ma 60 euro, dillo lo preso giusto, adesso che, capito, voi ci fa pensierino. No, c'ho un 140 in vendita. Chi lo vuole? Sta uscendo con un rumore strano, Luca. Prova di nuovo, Luca. Gianni. Oia. Sta uscendo con un rumore strano, Luca. Già l'ho sentito. Mamma mia. Ma sicuramente perché lui mette i fili senza spinotto, capito? E magari tocca qualche filo senza che se l'accorda. Perché c'ha il mixer e al mixer sta attaccando i cavi senza spinotto, così per provare. È un po' di rumore strano adesso. Ma tu non stavi cercando 140, Luca ha detto che lo sta prendendo. 60 euro ha detto. No, 60 euro, lui la gode in mezzo. Anche se due mucche, se l'hai ripetuto, dire che hai il prezzo giusto, e non la dici. 60 euro non ti manco un microfono, anzi, ne manco un cavo, ma per la corrente. Ma io già lo so, dai. Luca, stai uscendo male. No, a me piace quello che mi ha fatto vedere il ricevitore. Quello mi piace come coso. Troppe chilolire. Beh, c'è nessuno? Io sono sempre qua. Mi sono nessuno. Oh Luca. Gianni. Ehi, tu sono qua. E sei qua ma non parli di nulla, boh. Ma tanto che ci sono, tu. Sono qua. Ti prendi. Ma tu stai modulando, perché non stai uscendo bene. No, c'è la portante forse. Stai uscendo a tratto. C'è la portante. La portante dove? La portante. Hai capito, bello bene. Il tuo vuoi telefonare? Hai capito, Tony. Ui, la gnagna. Ma quanto stai trasmettendo? Non è 140, Luca. No, ma è uno siamo tanto lontani, capito? Perché è stato fatto. Capito. Che regala, va. Avanti Gianni, dai, che finisco qua di ponere a posto. Andare sì, eh? Stava qua. E beh. E tu, avanti, avanti. Cantando stai? No, cosa cantando? Così arrullato. Ascolta, come arrivo di segnale? Prova. 1, 2, 3, prova, perché ho fatto una modifica. E questo è Santiago 9, ma non so se è giusto, Antu, perché questo Smith è un po' strano. Santiago 7 qua, Antu, ciao, buonasera. Sto andando di più, e ho fatto una modifica che mi sta permettendo di andare di più. Va bene. Dai, vi saluto. Antonio. Dimmi. Santiago 7 qua, ho detto, ciao, buonasera, ciao Gianni. Buonasera anche tu, adesso tu siamo a forte qua, le 9:10. Ciao. Va bene, dai. Ciao a tutti, dai, vi saluto, ciao ciao. E ciao Antu. Avanti Tino. Sveglia, sta entrato. Sta entrato e proprio sereno un attimino là. APC adesso qualche cosa. Ia. Io lascio tutta la sera, oggi già ce n'era di gente, dai, meno male, un po' hanno parlato tutti, le altre sere proprio sempre QRM, buh. No vabbè, stamattina non c'ero, vero? Sto facendo un lavoro a Risco e poi ero focato in compagnia che stavo cercando di fare un lavoro a microfono. E ho capito, guarda c'è anche Tonino Kawasaki, avanti. Sì, io sono sempre qua, vi sto ascoltando. Ciao Tony, ciao. Sì, stavo controllando qualche cosettina qua. Sono qua, però stiamo ascoltando. Giustamente non interrompo di questi occhi. No, non c'è problema. Oh, Luca. Vabbè, dai. Stavo sempre attraverso la Claudio. Oh, Claudio ce l'ha poco fa. Vabbè, ci sentiamo più tardi allora. Ciao, ciao. Ciao, ciao a te. Ciao, Tino. Avanti, Cotturi. Capo. E Luca è sparito. Certo che doveva fare cosa, che doveva sistemare, buh. Ne ha poco di antenne, quando passo in quella zona io alzo un capo, ricca, capita. Fili, finiti, di polo contro di polo. Non è buco, che. Antu, va, Tori, se c'è il telefonino a portata di mano, mi registri e me la mandi, perché voglio sentire come esce questa radio con questo microfono. Aspetta. Devo trovare il registratore, qua ce l'ho. Certo che c'è, certo che c'è. Ma non ce l'ho scaricato per il registratore già. Asco, fa una cosa, metti WhatsApp, li apri la file e me lo fa ascoltare così. Li apri il microfono e me lo ascolto così. Aspetta. Voglio sapere se esce forte, se esce, come esce là. Voglio sentire la timbrica, che non mi sono mai sentito. Magari se attacco le cuffie mi sento, ma è un po' falsa là. Quello che ti fa sentire non è giusto giusto, là. Oh, l'ho acciappato il registratore, oh. Oh, Gianni. Ehi. Registrando mi stai, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo che ti sto registrando, continua così. Kappa, però prove tecniche in trasmissione, volevo solo vedere questo microfono come va. E poi me lo mandi su WhatsApp. Kappa di Rogero. Ok, cosa dici? Te lo mando già? Sì. Ok, aspetta. Kappa. Già io te l'ho mandato, eh. E adesso vado a visionare. Non lo devi visionare, lo devi ascoltare. Visionare quando tu guardi con gli occhi. Se poi devi ascoltare con le orecchie. Una bomba. Hai visto già? Esce bene. Esce forte. Ha una bella microfonia. Come fa stavo uscendo con 3009 quando tu hai detto come esce più forte e più basso di me? C'è con 3009. Però io non ci ho fatto caso perché ogni tanto ne uso uno, capito? Non ho fatto caso di che cosa stavo usando. Ok. Ma tu se ti metti le cuffie non riesci ad ascoltarti, se metti le cuffie. Sì, ma te lo falsifica, capito? Sì, ci riesco. Anch'io faccio a volte. Vabbè. A volte mettevo il tarme, cazzo, mi fischiava, allora mettevo le cuffie, mi sentivo chiaro e non ne scavo. Il tarme pesce forte, però ha mille difetti nella pelle, questo e quell'altro. Io l'ho aperto la bocca perché c'aveva le lamelle che erano appena appena inclinate, l'ho alzate ed è una bomba, va. Non usciva di radio. No, penso che ho preso io, che è uguale a quello che ho fatto a te, è più nuovo, diciamo, come rispetto al microfono. Perché tu cavi del maestro rimasto senza, l'ho dato a Gianni. Vabbè, comunque c'ho sempre di nuovo il Cobra, E il Cobra quello che ti ha tu? Sì, ya. E agnagname. Coppa, ciao Tony. Ciao. Questo ti piace? Questo 70 euro, io ti vieni a prendercelo, Coppa. Questo è come il tuo. Vedi un po', però è leggermente modificato il Colt, Coppa. E cioè, mandami una foto. Vai Gianni. Ma tu non sei manco GHBV. Comunque ha mandato di dire già qualcosa, vedi? Da 60 a 70. Straponi, non ne c'è una cosa qua. Ti piace questo, Tony? Beh, c'è un MIP delicato. Come radio ultima, che ti posso dire? Buono, segnalo lo stesso. A parogero. Va bene, ti mando la moto, capo. Perfetto, ecco. Andare. E qui c'ho questo apparato 10 metri addirittura, radio, sì, va anche sui 10 metri infatti questo baracchino, infatti non lo conosco, ma carità, sarà poco di problemi, tanti tazzini che non ci ho mai compreso nulla. Ma che apparecchio è tu? Quello hai detto 555. Ho capito, ma quello lì che cos'è, perché è decametrico? Non ci capisco nulla, guarda, io da quando ce l'ho, ci ho modulato qualche volta e basta, boh. C'ha troppi tassi, tanti non ci comprende nulla, frequenzive, tra meglio con il baracchino. Però ripeto, anche sui 10 metri, c'è un bel po' di watt, c'ha un bel rettore di raffreddamento dietro. Non lo so, se ho di scambiarmi lo scambio, c'è un'altra cosa che riesco a capire meglio. La Luca, vedi che te lo vendo. No, io non lo vendo, voglio fare scambio, se ve la posso. Capo, ti ho mandato tutto, ciao a dopo. Ciao, ciao. Ciao, Lucia. Ma le istruzioni, scusa, non ci sono tu lì per leggere e vedere come funziona? Certo che c'ho la scatola originale tutta. Non aggiungare di G. Ti metti un giorno che ce n'è voglia, piano piano, te lo leggi con tranquillità, ti rilassi e te lo leggi bene. Io quando c'è qualcosa che non capisco, prendo le istruzioni, però me le leggo stando molto attento, capito? E con l'apparecchio davanti e provando. Capretta, sono arrivato un messaggino. Comunque, esco, fa una cosa, chiamami al telefono, dai. Al cellulare. Bello il video che mi ha mandato Luca, Capito già? Ehi, ti sto chiamando. Adesso sto ancora caricando che mi ha mandato. Tony, ci si. Bombolino. Bombolo. Sì.